tempo. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Eccoci insieme per le nostre due ore di diretta del sabato. RadioTube Social Village, RadioTube Social Network. La prima ora, come sempre, un sacco di spettacoli. Parleremo tanto di musica, parleremo di cinema, festeggeremo anche un compleanno davvero singolare. Tutto questo nella prima ora di RadioTube. La seconda è quella dedicata all'attualità della rete e dalla rete. Questa settimana parleremo un po' anche di sport, anche grazie al nostro co-conduttore d'eccezione che scopriremo più tardi, che scopriremo nel corso del pomeriggio. 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei account social, Marta Cagnola su Twitter e su Instagram. Abbiamo già svelato su Twitter tutti i contenuti almeno della prima ora del nostro RadioTube, tutti gli ospiti, e io inizierei così. 1, 2, 3. Tanti auguri a te. Mari ha scritto una canzone per il compleanno. Come merda di piccione, io casco sulla folla. Di giorno leggo Freud, di notte sniffo colla. No, bella però. Ma giù, ammazzato. Questa è casa mia, ci sei entrata come un ladro. Oh! Zitta! Ma voi siete matti, tutte e due. Torniamo a vivere giorni difficili, siamo in attesa di capire come evolverà la situazione, ovviamente, ma noi, come abbiamo sempre fatto, seguiamo nella prima ora di RadioTube l'attualità degli spettacoli. E c'è anche il cinema, i film che escono con coraggio in un momento complesso, ma ricordiamoci di quanto i cinema siano luoghi estremamente controllati in cui si può ancora godere di un po' di intrattenimento in sicurezza. Per ora è così, ovviamente incrociamo le dita, ma io voglio segnalarvi un'uscita della quale già vi ho parlato nei giorni della Mostra del Cinema di Venezia, I Predatori di Pietro Castellitto. La storia di un incontro-scontro tra due famiglie molto diverse, per estrazione, per educazione, un film esilarante, la sorpresa di questo tormentato inizio di stagione. Proprio Pietro Castellitto fu nostro ospite a settembre, ma ora torniamo a parlare del film che è in sala con uno dei protagonisti, un attore che io amo moltissimo, Massimo Popolizio. Buongiorno Massimo. Ciao cara, ciao ciao. Massimo, intanto il coraggio di uscire, certo, ma anche da parte tua il coraggio di aderire al progetto di un regista esordiente. Insomma, sei protagonista di un'opera prima. Sì, guarda, da quello che racconta Pietro, però ci credo, è che praticamente Sergio aveva chiesto di fare la parte del papà, cioè la parte che ho fatto io. Sergio Castellitto, quindi Sergio Castellitto doveva fare il papà di Pietro Castellitto, ma Pietro ha detto: ma manco per niente, io non posso avere un papà sul set, poi quel papà. E allora ha detto: secondo me lo deve fare Massimo. E allora Sergio ha detto: vabbè, se non lo faccio io, l'unico che lo può fare è Massimo, ti do il permesso. Quindi, nel senso, sono stato coinvolto in questo modo, anche perché un po' conosco la famiglia. Margaret era l'anno prima di me in accademia, abbiamo fatto gli spettacoli insieme, Sergio lo conosco da tantissimi anni, quindi insomma non avevo conosciuto mai Pietro, però. E così sono stato coinvolto in questo modo, come sono stati coinvolti credo altri attori, proprio chiamati per la parte, nel senso non ho fatto un provino e devo dire così, insomma, ci siamo visti il primo giorno sul set in realtà. E poi ti sei trovato con questa parte in bilico tra l'uomo integerrimo, solido, che è poi quello che ci suggerisce la tua fisicità, e una realtà un po' grottesca. Sì, voglio dirti, sai, hai visto il film, e il film è diviso un po' diciamo in due parti, anzi forse in tre parti molto chiare. C'è una parte, quella diciamo degli abitanti di Ostia, molto più naturalistica, a cui noi possiamo fare dei riferimenti anche diciamo dal punto di vista cinematografico molto ben precisi, cioè sono anche sono ben delineati in un modo naturalistico. Poi c'è tutta l'altra parte, la parte appunto del radiologo, la parte mia ed Emanuela, che è mia moglie, e della regista appunto, che fa mia moglie, che è molto più, diciamo, assomiglia più a una filmografia, se vuoi, francese, cioè nel senso in cui ci sono delle battute un po' più assurde, una comicità un pochino meno sguaiata in questo modo. E poi c'è addirittura Pietro, che quando parla sembra Buster Keaton, quando fa poi dei monologhi lui c'ha, come c'è, è veramente, vai proprio sui toni dell'assurdo. Queste tre componenti, sai, noi quando giravamo, ti devo dire anche questo, noi non sapevamo bene che cosa stessimo facendo, per cui Pietro diceva di fare delle cose e poi diciamo il film che tu hai visto è frutto anche di un montaggio molto sapiente. Non avevamo consapevolezza, come spesso succede nel cinema, di ciò che sarebbe stato poi il prodotto finito, e quindi mi dovevo adeguarmi alla situazione che Pietro chiedeva. Sai, devi fare un radiologo, quindi che non è tanto, diciamo, quando un attore dice fa un radiologo, non è che salta dalla gioia, è un radiologo. Però questo radiologo, come tu hai detto prima, insomma, ha una parte che sembra normale, un amico, una moglie, e poi ha una doppia vita. Non per niente. Il film si chiama Predatori, ecco, in cui molto spesso predano, ma gli stessi predatori, se trovano qualcuno di più forte, diventano anche delle vittime. Salutiamo anche i radiologi, che comunque ci stanno simpatici, ma semplicemente perché non è un ruolo così caratterizzato, diciamo così, quello di essere un radiologo. Mi piace parlare con un attore come Massimo Popolizio, che ha una carriera senza compromessi. L'ultima volta che ci siamo incrociati era per Le Mans Trilogy. Quindi sì. Cose che scegli con grande cura, forse questo è anche un po' il segreto di una carriera senza sbavature? Guarda, io non lo so, perché poi mi trovo le cose, tu qualche cosa la scegli, qualche cosa ti capita, non hai la palla di vetro, e poi c'è un destino. Io credo molto al destino, cioè quello che fai è perché lo devi fare, ecco, non ti capita perché ti deve capitare. Certo, una cosa è che adesso, diciamo, ho 59 anni, io ho cominciato a 21, quindi quello che mi rendo conto quando mi guardo indietro, faccio, mamma mia, ma ho fatto tutta questa roba, 20 anni, 25 anni con Ronconi, degli incontri anche di cinema non ne faccio tantissimo, ma degli incontri molto importanti, doppiaggi, radio, libri, serate, con i musicisti più importanti di jazz che sono in questo momento, per cui sì. Credo che il segreto sia un po' resistere, nel senso che io auguro a quelli che hanno oggi 25, 28 anni, 27, perché diciamo, la cosa importante si vede nella durata, si vede quando vai più avanti, cioè quanto riesci a resistere facendo delle cose che hanno una certa qualità. Sì, questa è la carriera più importante, non tanto per le scelte, perché sai, ho fatto anche film o cose anche meno importanti, ma quello che è importante è la passione con cui lavori e la consapevolezza di dove sei, e non credere che stai facendo un film comico e pensare di fare un film di Sorrentino. No, è un film di Pietro Castellitto, è un film di Pietro Castellitto, va fatto in quel modo, cioè tu devi entrare la tua capacità di essere a servizio di Pietro Castellitto. Ecco, diciamo che questo cast, scusa, qui finisco, mi sono un po' dilungato, di Predatori, è un cast che si è messo completamente a servizio di un'opera giovane, ed è quello che bisogna fare. Attori più vecchi, più grandi, devono essere a servizio della creatività di un giovane. Questo penso sia giusto. Beh, questa cosa è davvero tanto importante. No, poi devo dire, un attore con questa voce pazzesca, questa fisicità, anche un po' a vederti sembri quasi severo, no? Austero, eh? E poi andatelo a vedere nei Predatori, perché io, davvero, la poi la scena della piscina, non vi dico niente, la scena della piscina, secondo me è proprio il culmine. Grazie Massimo, grazie, davvero grazie, un abbraccio grande, grazie Massimo, ciao, grazie. Ciao. Radio Tube Social Village. Si parlava dei cinema, insomma, io sono stata al cinema anche questa mattina, sono andata a vedere Cosa sarà di Francesco Bruni e tutti lontanissimi, misure di sicurezza rigorose, quindi non sappiamo cosa ci riserverà l'immediato futuro, cosa ci riserveranno i prossimi giorni, però per ora, insomma, il cinema ancora c'è e ci sono dei film davvero da non perdere come questi Predatori. Ma parliamo un po' di musica, dai, parliamo un po' di musica con un disco che è uscito la settimana scorsa, l'ho ascoltato un bel po' in questi giorni e davvero non è male, eccolo qua. Oh, ma quanto tempo ho perso dietro a un dito, senza capire chi accusava me. A volte pensi di essere cresciuto, ma porti dentro un altro limite. E quante trappole che ho costruito, per poi finirci dentro solo io. Benché mi stesse bene quel vestito, oggi mi accorgo che non era mio, non era mio. Prendimi le mani adesso, dimmi che è diverso, che mi passerà il panico nell'ansia, che posso starne senza. Oh, oh, oh. Fermami le mani addosso, in fondo un solo sorso, la felicità e devi berla tutta, che questa vita è una. Dell'ansia, ultimo singolo che viene da un album che aspettavamo da un paio d'anni, Ego Sistema. È il nuovo album del premio della critica delle nuove proposte di Sanremo 2017. Maldestro, ciao Antonio, bentornato. Grazie, ciao. Che ciao. Bello sentirti, vederti, anche se un po' a distanza, perché questo ci tocca. Voglio chiederti intanto com'è tornare discograficamente in un momento così particolare, cosa rappresenta per te? Ma parte un'emozione, perché a distanza di 2 anni comunque insomma, si fanno sentire 2 anni di mancanza, 2 anni senza un confronto con il pubblico, con le persone. È vero anche che è un periodo particolare, quindi da difficoltà per presentare il disco in giro per l'Italia come amo io. Sì, c'è, quindi stiamo cercando la soluzione migliore per poter pubblicizzare e promuovere il disco in modo più efficace, per portarlo alle persone che mi seguono. Certamente mi mancherà quella sensazione di carnale che sta negli sguardi, che sta negli abbracci delle persone che ti seguono, però il tempo è quello che è, quindi bisogna adeguarci, ma l'emozione è sempre la stessa, è sempre un'emozione grande. Senti, io sono un'ansiosa e quindi quando già ridi, quindi ho capito che c'era un terreno comune quando ho iniziato ad ascoltare il disco. Diciamo, io non sono abbastanza ansioso, nel senso che ho quelle piccole ansie gestibili assolutamente, ma la convivenza, io credo che trovare la pace, non la felicità, ma la pace che è molto più sottile, che non vuol dire cancellazione dei tormenti o del dolore, ma vuol dire accettare i dolori e i tormenti, e a quel punto, una volta che li hai accettati, li hai consumati, li hai compresi, vivi anche una bellissima pace, una bellissima serenità, quindi una convivenza di intendi, convivenza di molto molto pacifica con tutto quello che ci ho detto. Senti, a proposito di convivenza, appunto andando anche all'amore, insomma, hai anche descritto con toni belli forti, passionali anche. Ah, beh, assolutamente, perché fa parte della mia vita, cioè la passione, senza la passione che brucia nulla si muove, quindi è importante che lo si racconti, e che lo si racconti da diverse prospettive, non solo quelle prospettive che raccontano un amore tra virgolette convenzionale, classico. Io sono un fan dell'amore a 360 gradi, ora come si presenta, l'importante è che si presenti. Io ovviamente ho ascoltato con particolare interesse pezzi di me, perché quando ti ho incontrato la prima volta, penso di avertelo confessato anche allora, avevo molto pudore a farti raccontare della tua storia, perché avevo l'impressione che questa cosa interessasse fin troppo, che fosse troppo materia di titoli, di interesse nazionale. Non lo so, che forse spostasse un po' l'accento sul fatto che tu stessi cantando, che tu avevi portato un progetto molto interessante. Un po' hai fatto il conto, hai fatto i conti con quell'aspetto lì, con pezzi di me? Ma assolutamente, insomma, è la battaglia che ho fatto io per 5 anni, nel senso, cioè, sono stati sempre molto bravi i giornalisti a fare titoli strabilianti, meravigliosi, ma non sono andati mai in profondità e a comprendere realmente ciò che provo io dentro, perché è difficile, forse impossibile, comprendere la mia prospettiva, capire quello che c'è dentro io, quindi è stata sempre trattata probabilmente in modo superficiale e non delicato. Io preferirei sempre non parlarne, ma semplicemente perché ne ho parlato già abbastanza e ne parlo nelle sedi opportune, quando vado nelle scuole, nelle università a raccontare ai giovani che nonostante si arrivi da un contesto particolare, c'è sempre un'alternativa e si può seguire senza nessun problema. In questa traccia ho raccontato perché ho risolto, insomma, con me stesso questa situazione. Oggi me ne frega abbastanza, c'è un poco di tutto ciò, ma proprio l'ho raccontata per dire: a questo punto, se dovete raccontarla voi, ve la racconto io, purché non se ne parli più, basta, arrivederci e grazie. Mi piace come approccio. Passione per il cinema coreano? Com'è? No, è tosto. No, perché in tanti sì. L'hanno scoperto ultimamente, perché è diventato più mainstream. Però la scelta di Kim Ki-duk non mi è dispiaciuta. No, è un regista che seguo da anni, l'ho scoperto anni fa e ne sono rimasto subito affascinato e amo il suo modo angoscioso, ansiolitico di raccontare la vita, il suo modo crudo di raccontare la vita, la sua prospettiva. E quindi, poiché questo è un album dove mi racconto senza troppi fronzoli e senza troppi giri di parole, la scelta di raccontare in un brano un'esperienza usando Kim Ki-duk come scamotaggio, insomma, la trovavo non solo una scelta stilistica che mi piaceva, ma anche un omaggio al regista, insomma, che amo molto. Bello, bello, mi è piaciuto. In questi anni è cambiata molto la scena musicale napoletana e campana. Tu come la vedi la situazione? Perché si sono accesi molti altri riflettori, ci sono molti talenti anche di generi diversi. Mi sembra particolarmente interessante in questo periodo. No, assolutamente, anch'io trovo molto interessante il movimento che si sta creando, ma non solo qui a Napoli, in Campania, ma a livello nazionale. Io sono credo molto nei giovani, nel talento delle nuove generazioni, ci sono fenomeni pazzeschi a cui va dato un orecchio, assolutamente. Anzi, mi fanno incazzare tutti quelli che hanno questi musoni lunghi sulle nuove generazioni e parlano sempre del passato. Io sono convinto che chi resta ancorato nel passato è perché non vive un presente felice. È giusto che il passato si conosca, lo si studia, si attinge dal passato, perché è fondamentale, ma bisogna unirlo al presente e cercare di costruire qualcosa di nuovo. Quindi credo nel nuovo linguaggio di giovani, perché è cambiato, per fortuna che è cambiato. Immagina se oggi si cantasse ancora finché la barca va, cioè nel senso è giusto che le cose si evolvono. Anche noi non parliamo più come parlava Petrarca e Dante, abbiamo cambiato il nostro modo di parlare, oggi c'è un nuovo slang, un nuovo flow, ma questo non vuol dire che non ci sono contenuti, ci sono giovani che hanno delle storie da raccontare che vanno assolutamente ascoltate. Antonio, devo dirti una cosa. Allora, ho visto queste tue foto nuove, il look mi piace molto, very sexy, mi piace molto. Voglio sapere se è vero, visto che hanno titolato tutti, che ci siamo persi e perse anche la possibilità di una cover del disco un po' più hot. È vero o non è vera questa cosa? Che no, è molto buffa. È vera perché insomma, l'idea della copertina, la copertina che avevamo realizzato era un'immagine che per me rappresentava appieno la nudità, cioè quello che volevo raccontare del disco, quindi oltre alla nudità interiore anche la nudità fisica, quindi mi sono spogliato completamente nudo coprendo insomma le parti intime, ma per i social non era stata oggetto di censura, non veniva promossa, non veniva insomma, per varie cose di bigotteria di cui non siamo qui a parlare, e quindi mi sono molto incazzato e da lì è nata la seconda copertina, di cui sono felicissimo, perché ho detto se devono censurarmi a questo punto mi censuro da solo e cerco di dire qualcos'altro. Grande Antonio, molto divertente, molto divertente, mi è piaciuta molto. Vabbè, senti qua, prendiamo quello che si può, Antonio. Allora, ti ringrazio tanto, ti faccio ancora davvero i complimenti, seguirò con grande passione il viaggio di Egosistema perché te lo meriti, perché poi è un momento in cui è difficile far sentire i pezzi, condividerli, e quindi ti meriti un sacco di attenzione in più. Quindi grazie a Maldestro, ascoltatevi Egosistema, che è difficile da dire, ma è un disco anche facile da ascoltare, poi davvero anche con delle parti che vi divertiranno e vi appassioneranno molto. Grazie Antonio, un abbraccio. Grazie mille a te, buon lavoro, un abbraccio forte. Radio Tube Social Village. Parliamo ancora un po' di musica, o meglio, parliamo di musica e anche di un film che andrà al cinema ma che poi andrà anche in una piattaforma. Dai, io lo introdurrei con questa canzone. Quando tu finisci le parole, sto qui, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so. In inglese Seen, perché è un pezzo che è stato registrato in 5 lingue, avete sicuramente riconosciuto Laura Pausini. Questo Io Sì è un brano che è uscito su tutte le piattaforme ed è anche un EP con appunto questo brano in 5 lingue ed è il tema di un film che si intitola La vita davanti a sé, un film di Edoardo Ponti con Sofia Loren, un film che andrà al cinema per qualche giorno all'inizio di novembre, poi che sarà su Netflix. Netflix dal 13 novembre. Proprio Netflix ha segnalato questo brano all'Academy per le nomination agli Oscar 2021. Quello poi sarà un lungo percorso, ma intanto Io sì, Sin è in corsa. Questa settimana ne abbiamo parlato proprio con Laura Pausini, che intanto ci ha raccontato com'è nato questo progetto. È nato quest'estate, quando mi ha chiamato prima Diane Warren e mi ha parlato di questa canzone e di questo progetto. Questa canzone, che è nata in inglese, si chiama Sin, e dopo che mi ha raccontato il progetto ho parlato con Edoardo Ponti, che mi ha mandato il film. Ho guardato tutto il film e dopo averlo visto ho deciso di farlo, di cantarlo. La canzone ovviamente mi piaceva già, però quando si fanno questi tipi di progetti credo che sia importante soprattutto trovare un'affinità anche personale quando si guarda un film che ha un messaggio del genere. E siccome io mi riconosco al 100% con quello che il film racconta, mi sono molto entusiasmata, e forse ho aspettato così tanto in questi anni a decidermi di accettare di fare la colonna sonora di un film, cioè la canzone, non è la colonna sonora, è la canzone, il tema principale, perché aspettavo di emozionarmi così. E davvero questa emozione ovviamente arriva dalla musica, ma arriva per il significato di questa vite, di questo film che racconta di due persone, di tante persone, ma in particolar modo di Madame Rosa e Momo, e di questi incontri che possono cambiare la vita e in questo caso possono salvarla. E a me questo emoziona moltissimo. Allora, questa Io sì di Laura Pausini, o meglio di Diane Warren, autrice famosissima e cantata da Laura Pausini, abbiamo sentito è il tema di questo film che si intitolerà La vita davanti a sé, un film di Edoardo Ponti con Sofia Loren. Ma sappiamo qualcosa di più del film, dai, facciamocelo raccontare proprio da Laura Pausini. So che è stata anche Sofia a scegliermi, perché io faccio la sua voce, faccio quello che lei dice. Sofia interpreta Madame Rosa, che è una sopravvissuta all'olocausto e che si prende cura dei figli delle prostitute, no? E Momo è un immigrato senegalese che ha 12 anni e che vive, cioè questa storia racconta un po' l'abbandono, affronta il tema della solitudine in due maniere diverse, dal punto di vista di un bambino e di una donna che ha vissuto tantissime cose e ne ha viste di tutti i colori, però insieme superano attraverso la protezione, il senso di famiglia che non è una famiglia di sangue, ma è una famiglia. Mi piace tanto che sia raccontato da due punti di vista, che sono gli occhi di un bambino, perché a 12 anni è un bambino che è già molto, che conosce già tantissime cose, perché arriva a rubare in una maniera molto scaltra, con delle furbizie che non appartengono a quell'età, e gli occhi di una donna che veramente può insegnare molto, ma sta cercando di apprendere ancora attraverso la vita di questi bambini. E Laura Pausini dice che queste storie in realtà sono storie davvero che esistono davvero. Laura Pausini: però esistono e sono vere, e sono storie di esseri umani, e il mondo è fatto di solo di esseri umani e di quello che si trasmettono, quindi la forza della solidarietà, dell'empatia, dell'altruismo, cioè per me il fatto che la vita non abbia un senso se non si ha qualcuno da amare è ancora la priorità, ed è per questo che insisto con il fatto che oggi, con questa parola oggi, la quotidianità che viviamo, anche attraverso questi lockdown che vanno e vengono, questi momenti che ci costringono a stare con noi stessi e comunque a pensare, a me portano lì, cioè, ed è per questo che mi piace che questo messaggio sia dato da due tipi di generazioni diverse, da un'icona e da una giovane promessa, da una persona bianca e una persona di colore, cioè ci sono queste grandi diversità, sono quelle che formano la vita del mondo. L'ho anche cantato in passato, ho fatto un disco che si chiamava Simili, che voleva proprio dire questo. E quindi ovviamente mi ritrovo e mi emoziona, forse oggi ancora più di prima, proprio perché a me comunque questo periodo, io sapete che viaggio tantissimo, quindi quando viaggio non è che vado in vacanza, e lavoro sempre, ormai anche sull'aereo, visto che hanno messo anche wifi sull'aereo, che alla fine pensavo fosse fantastico, invece lei è un disastro, perché io alla fine mi collego sempre anche da lì, però non sto mai da sola con me stessa a pensare, e da quando comunque siamo stati costretti a chiuderci in casa, sono nati tanti pensieri e preoccupazioni legate dal Covid, ma anche che si aprono di conseguenza tutto quello che si vive ogni giorno, non solo nel nostro paese, ma nel mondo intero. Ogni giorno c'è una notizia che mi sciocca e che non so neanche come giustificare bene quando devo spiegarla a mia figlia, che adesso ha 7 anni. E ovviamente lei avrà i suoi pensieri quando è più grande, ma la sua mamma sono io e io voglio dirle come la penso io. When you feel like no one understands you, I will. Ma Laura Pausini e Sofia Loren si sono conosciute? Quando si sono conosciute? Ecco qui. Io e Sofia ci siamo conosciute nel 2003, quindi ci siamo già parlate tanto anche, perché anche se ci siamo sempre viste in occasioni, insomma, la prima volta era una festa che aveva organizzato Giorgio Armani a Beverly Hills, io ero lì che registravo il disco in inglese e l'ho incontrata, e anche se appunto era una festa piena di gente, lei è stata molto con me, e in quell'incontro ho capito subito che c'era molta empatia tra di noi. Poi ci siamo riviste alcuni anni dopo a Ginevra, perché Phil Collins aveva organizzato un concerto benefico per la sua associazione. Lei è molto amica di Phil Collins, quindi era stata invitata anche lei nel pubblico mentre io cantavo, e nel pomeriggio, mentre aspettavamo di fare le prove, lei è venuta a vedere le prove. Anche questa è una cosa che mi ha sorpreso. E siamo state nel teatro vuoto in attesa dei tecnici, io e lei da sole sedute in platea, e abbiamo parlato tantissimo. Era un anno particolare per me, perché non riuscivo a rimanere incinta, e quindi le ho raccontato queste cose e lei mi ha parlato tantissimo. È una persona, io credo che alcuni di voi comunque la conoscano, abbiano avuto occasione di verificare che è una donna italiana, di quelle che quando ci definiscono gli stranieri ci pensano così. E io è molto materna, è molto protettiva. Ma Laura Pausini farebbe mai l'attrice? L'abbiamo chiesto. Io mentre canto in studio per registrare per il disco, io faccio già il videoclip con gli occhi. Quella è un'altra cosa, io non sono capace di inventarmi di essere un altro personaggio. Cioè io devo fare me, cioè voglio fare me, voglio essere me. Non sono capace. Poi non mi piacciono le persone che hanno un nome conosciuto e per questo pensano di poter fare tutto. Alcuni hanno la caratteristica di farlo, le capacità, ma Ovviamente questa cosa che mi hai chiesto e il mio modo di risponderti è dovuto anche dal fatto che negli anni mi hanno chiesto di fare dei film, ma anche di entrare in altri settori che io non sento miei. Ritengo che oggi come oggi, ma da sempre, però in particolar modo oggi, dove quando si parla di arte ci si accontenta molto anche a livello proprio qualitativo, di ricerca di suoni, ma soprattutto di realizzazione vera e propria, sia molto importante essere più puntigliosi che mai e selezionare, cioè non si può fare tutto un po', secondo me, non è il mio carattere anche nella mia vita privata. A me piace buttarmi nelle cose, però non puoi fare una prova se ti piace, non so, il cinema mi piace, però non è che mi butto a fare una prova per vedere se sono brava a fare l'attrice in un film che la gente paga per andarlo a vedere, perché la gente paga per andarlo a vedere e quindi io non faccio delle prove lì. Cioè, non lo so. Comunque non mi interessa, ecco. Cioè, io voglio fare me stessa. Radio Tube Social Village. Come siamo messi a nostalgia? Dai, facciamo una cosa, facciamo un piccolo, discreto salto indietro nel tempo e vediamo un po' cosa si prova. Dai, proviamo così. Scelta in spagnolo. No, vi dico la verità, sapete che vi dico sempre la verità. Ieri sera ho preparato la scaletta della trasmissione e l'ho trovata nelle nostre cartelle del sistema editoriale in spagnolo. Ho detto, vabbè, dai, mettiamo in spagnolo questa Olympic Games. Sì, Andrea sorride in regia dietro la mascherina. Sì, ce l'avevamo in spagnolo, allora l'ho presa in spagnolo. Perché no? Allora, ovviamente, chi ha più di una certa età si ricorda che questa è la canzone di Miguel Bosé in italiano, non esisteva in Italia, ce l'avevamo in inglese, si chiamava Olympic Games, proprio nel 1980. 1980, Olimpiadi, lui cantava questa canzone, ma soprattutto era diventato un idolo incredibile per le ragazze. Sì, diciamo che aveva esordito già nel 78, 77, 78, 79, cominciava a essere famoso, ma nel 1980 è proprio esploso. Perché parliamo del 1980? Tante cose sono successe allora, ma insomma è nata anche una rivista che compie 40 anni, c'è, vive e lotta con noi, c'è Cioè, e noi ci colleghiamo con il direttore di Cioè, Marco Iafrate. Buonasera Marco. Buonasera a tutti, eccomi qua. Oh, che meraviglia sapere che Cioè c'è sempre. Intanto che sopravvivano i giornali è sempre una buona notizia, che resistano i giornali. Ma è un compleannone importante. Posso chiederti intanto, Marco, Cioè ha una importanza notevole nella tua biografia, nella tua carriera di giornalista? Beh sì, in effetti io voglio bene a Cioè, devo molto a Cioè, perché mi ha visto protagonista lavorativo due volte, prima proprio negli anni Ottanta, cioè nato il 7 ottobre 1980, e quando all'inizio dell'81 niente, mi hanno chiamato a fare il caporedattore. Posso dire che ero il giovanissimo caporedattore. Anzi, mettiamo i puntini sulle i, mettiamo i puntini sulle i, Marco, fai bene. Poi invece dal 2009 niente, sono tornato, cioè che sono stato per fare il direttore quando la Panini mi ha preso Gioè, è accaduto questo, e sono contento di questa cosa, perché a questa testata, a questo pubblico, a questo target a cui Gioè si rivolge da tanto tempo, io voglio bene, perché le ragazze, insomma, le teenagers, come si diceva, sono davvero un po' la linfa militare della società, voglio dire, queste ragazze devono portare la loro freschezza e la loro voglia e vitalità in una società complessa. E Marco, come sono cambiate? Ecco, come sono cambiate queste ragazze? Perché ricordiamo tutti, cioè, anche se io non lo compravo nell'80, ma mica tantissimissimi anni dopo, e qualche annetto dopo, c'erano. Io andavo pazza per gli adesivi, perché noi c'erano tutti gli adesivi dei nostri idoli che mettevamo sul diario di scuola o sul diario personale, quello segreto. Ma c'erano anche le famosissime lettere in cui, insomma, si leggevano consigli e anche, lo possiamo dire, un po' di educazione sessuale, che all'epoca forse era anche qualcosa di più clamoroso, perché tante cose non si sapevano. E poi c'erano i fotoromanzi. Come sono cambiate le teenager del 1980 e quelle del 2020? Anche perché hanno degli strumenti molto diversi a disposizione. Certo, intanto ti dico che hai perfettamente ragione, gli adesivi sono stati fondamentali. Penso un po', prima abbiamo ascoltato, anche io ora l'ascolto, Miguel Bosé, e devi sapere che lui è stato il primo protagonista di una copertina adesiva di Cioè, per la precisione nel 1982. La prima copertina di Cioè c'era un adesivo gigante di Miguel Bosé. Incredibile. Perché, come dicevi, infatti piaceva da morire. Io ce l'ho ancora un'agenda, mi sono dimenticata di fotografarla, metterò stasera quando torno a casa, metterò su Instagram qualche story, un'agenda piena di adesivi, erano qualcosa di, perché lo dicevo prima al nostro Alessandro Schirano in redazione, che ha qualche annetto di meno, qualche anno fa se tu amavi un cantante non c'era Google e andavi a prendere tutte le foto, aspettavi le riviste, per addirittura l'adesivo era qualcosa di straordinario. Marco, così dicevi, è una grande verità. Sì. E dicevo che quindi, cioè, ovviamente piaceva molto per gli adesivi, per i poster, per i fotoromanzi, per i programmi di interviste esclusive e quant'altro, ma hai centrato l'argomento della trasgressione, perché cioè negli anni 80 e negli anni 90 si poteva definire trasgressivo, aggiungo con correttezza, lasciami dire forse con educazione e con rispetto, ma trasgressivo sì. Perché in quel decennio degli anni Ottanta, che noi raccontiamo in questo speciale Ora in Edicola, effettivamente nella scuola e nelle famiglie con i genitori, per le ragazze non era così facile intrattenersi sui temi dell'amore, della sessualità, insomma, e non ci si riusciva con tanta leggerezza. E quindi, cioè, per certi versi ha ricoperto anche una funzione sociale, scusa se sembro un po' troppo serio su questo, ma ne sono decisamente convinto, perché rispondere alle lettere o dare gli inserti, di cui ci fu anche un inserto chiuso addirittura che raccontava della sessualità con l'aiuto di sessuologi, psicologi e sociologi, e c'era anche scritto apritelo solo se ve la sentite, utilizzate le ragazze questo messaggio, ecco, era veramente un qualcosa che apriva gli occhi, magari aiutava anche a fare qualche errore in meno. Mi capita talvolta di parlare con giovani signore che mi raccontano, quando sento questa notizia, mi raccontano della loro esperienza con Cioè, mi raccontano anche, ma sai che io ho imparato delle cose con Cioè. E insomma, questo era decisamente vero. Sì, a volte magari le leggevamo e sorridevamo, perché certe domande sembravano veramente, però effettivamente certe cose non si sapevano, e quindi che una rivista desse delle risposte era importante. Oggi ovviamente, se negli anni 80-90 avevamo un trasgressivo, sul tema appunto della sessualità e di questo tipo di informazione. Oggi no, nel senso che effettivamente questo ruolo non ha più ragione di essere, perché sai perfettamente quella situazione attuale, che ci sono talmente tanti mezzi e talmente tante situazioni in cui questi temi vengono trattati, che forse la teenager di oggi, la ragazza di oggi non ha bisogno di Cioè. Il Cioè ha preso un approccio da trasgressivo, lasciami dire un termine anche questo un po' così, ma è diventato un giornale, come dire, molto per bene, nel senso che quando tratta della sociologia giovanile si occupa ancora della parte affettiva, l'amore e quant'altro, l'amicizia, i rapporti con i genitori, ma prende anche posizioni molto rigide su alcuni temi, e parla dei problemi che procura l'alcol se se ne abusa, e parla dei problemi come il bullismo, che è qualcosa che sta attanagliando sempre più questo target, e quindi diciamo che la sua trasgressività forse è essere un po' per bene. Allora, 40 anni di ragazze italiane, 40 anni di idoli dei giovani e soprattutto delle giovani, da Miguel Bosé in poi, per me ancora Miguel Bosé è il mio idolo, sono passati tutti questi anni ma rimane sempre lui. Bello ripercorrere questi 40 anni, cosa che voi fate appunto in uno speciale in edicola con il numero 1902, cioè il 1902esimo numero di Cioè. Buon compleanno alla rivista, buon compleanno alle lettrici e buon compleanno e buon lavoro al direttore Marco Iafrate. Grazie, tanti auguri. Grazie a voi, buon tutto a voi. Che meraviglia, grazie, ho detto che meraviglia, grazie al direttore di Cioè Marco Iafrate, davvero. Sarebbe bellissimo potersi tuffare in questi vecchi numeri e riscoprire quelle che erano le ragazze del 1980, che sono le nostre madri, le nostre fantastico, perché c'è davvero tantissima storia del nostro paese e anche delle donne. Avete visto, è diventato tutto un po' diverso, insomma le risposte che cercavano le ragazze una volta sono ovviamente un po' cambiate, sono cambiati gli strumenti, ma la rivista resiste. Io poi vado in edicola a comprarla. Allora, noi adesso ci interrompiamo per qualche minuto. Io vedo dalla nostra webcam interna a Roma Vincenzo Miglietta, ci facciamo ciao a distanza Milano-Roma. Vincenzo è pronto a condurre il giornale radio delle 17, poi saremo ancora insieme con Radio Tube.